Franzini e Grossberg in comportamenti bizzarri, che è un libro piuttosto insulso e scombinato che è uscito da poco, dedicano un capitolo a coloro che, pur essendo stati classificati come subnormali, hanno dimostrato incredibili e straordinarie capacità. La letteratura classica li ha spesso chiamati con il francesismo di idiot savant, forse per un residuo di razzismo. Questi due psicologi americani, questo Franzini e questo Grossberg, fra gli idiot savants raccontano la storia di Blind Tom, il 14° figlio di una schiava afroamericana. Nel 1849 fu regalato come giunta di macelleria nel contratto d'acquisto della madre ad un generale dell'esercito. Era cieco e non valeva nulla. Ma a quattro anni, Blind Tom una notte risvegliò tutta la casa facendosi trovare seduto al pianoforte. Ripeteva abilmente una sonata di Mozart dalla prima all'ultima nota. Il generale capì al volo l'opportunità che gli si presentava, fece studiare musica al bambino, che a 6 anni praticamente cominciò la sua carriera d'artista. Il generale si trasformò in suo impresario e già nel primo anno sembra che abbia guadagnato qualcosa come $100,000. A 11 anni ebbe l'onore di tenere un concerto alla Casa Bianca alla presenza di James Buchanan, presidente degli Stati Uniti d'America. E poi via via, nell'entusiasmo della critica e con il caloroso favore del pubblico, percorse tutte le stazioni di una carriera di grande successo, almeno fino all'età di 53 anni, quando il vecchio generale dovette salutare il pingue conto in banca ottenuto grazie al proprio schiavetto negro e tirare le cuoia. A quanto dicono le cronache, Blind Tom, perdendo il padrone, perse anche il gusto per la musica e si lasciò andare alla più cupa depressione. Ne morì solitario nel 1908. La vicenda di Blind Tom non è particolarmente originale. Un'analogia che salta all'occhio è quella con la vita di Mozart, tanto per dirne una. Anche lì c'è stato qualcuno, nel caso di Mozart, il babbo Leopold, che ha preso un bambino poco più che in fasce e che sulla scorta di un progetto preciso ne ha fatto un mostro di bravura. Di questo genere di racconti, come della maggior parte dei casi di precocità, si ama ricordare quelli che almeno da un certo punto di vista sono andati a finir bene. I Mozart, che hanno lasciato all'umanità opere di incomparabile bellezza. Di quelli finiti male ovviamente si tace. Eppure sono tante le vittime immolate sull'altare delle ambizioni dei genitori. Capita a volte che una meta non raggiunta, una frustrazione subita, per lo più da un padre, inconsapevolmente o consapevolmente si traduca in un progetto per un figlio, il quale, ignorato in quanto persona, derubato di una storia propria, si trova impegnato ad una vita artificiosamente appiccicata addosso, protagonista di un sogno altrui che per lui diventa subito un incubo. Il signor Steve Caldicott è un inglese che ha un figlio e che, come tutti gli inglesi, ama le scommesse. Ha dunque scommesso con una nota società, inglese ovviamente, che nella finale dei campionati mondiali di calcio del 2018 suo figlio segnerà un gol per l'Inghilterra. In palio c'è un premio di 2 miliardi e 300 milioni di lire. Suo figlio oggi ha 3 anni e nel 2018 ne avrà 24, l'età giusta per giocare alla nazionale di calcio del proprio paese, l'età giusta per portarlo alla finale dei campionati mondiali e per segnare un gol in quella fatale e cruciale occasione. Crudeltà mentale e stolida perfidia, qui appaiono in tutta la loro evidenza. Raramente ci è dato di constatare un caso tanto chiaro. Mi viene in mente una confessione di un cosiddetto pentito di mafia pubblicata dai giornali poco tempo fa. Alla domanda sul come mai avesse accettato di far parte dell'organizzazione criminale, il poveretto rispondeva che così facendo sperava di ottenere per il suo figlioletto un posto nei pulcini del Milan. Fatto è che nella parte giusta del mondo, in quella dove si mangia e si beve alla faccia dell'altra, nella figura del calciatore si sono andati a concentrarsi tutte le virtù che in passato contraddistinguevano il grande musicista, l'artista valente o comunque chi sapeva fare qualcosa di mirabile che altri non sapevano fare. Nell'impresa sportiva oggi c'è il guadagno favoloso, la ricchezza immensa e immediata e c'è la devozione del mondo intero prostrato innanzi alla televisione. Dietro le chiacchiere della lealtà, del benessere fisico e della scuola di vita c'è l'ideologia più remissiva e al contempo più idonea per questa straziante stagione in cui chi comanda e chi ubbidisce dicono entrambi di credere alla fine delle ideologie. Al solerte babbo inglese che ha scommesso sul gol del figlio nel 2018 qualcuno dovrebbe spiegare che come genitore è già fallito e che ha innescato dentro di sé una bomba che nel tempo lo distruggerà. Il bambino passa troppo tempo sui libri, gli piace disegnare, ha una bella voce, dimostra attitudine musicale, che so, ceffoni presumibilmente. Guai poi se volesse andare a sciare, oddio non voglia si appassionasse di ricami all'uncinetto, lo porterebbe dritto dallo psicologo. Il primo amore, beh, dipenderà dagli orari di allenamento. La strada della vita è stata segnata in anticipo ed ogni deviazione sarà vista come una trasgressione o un insulto del destino. Saranno affettuose e degne di un figlio verso un padre soltanto le parole che confermeranno l'adesione all'intento. Sarà nemico, strano, ostile, sbagliato, patologico, pericoloso e letale tutto il resto. Ciò che nella normalità di un rapporto fra genitori e figli costituisce una differenza ovvia e componibile nella tolleranza di età e circostanze diverse, nel caso del rapporto fra il padre scommettitore ed il figlio calciatore programmato, diventa il casus belli, il marchingegno della rottura insanabile, da cui due relitti in più nel malessere sociale. Non vorrei che la peculiarità del caso finisse con il delimitare la generalità del problema che, riflettendoci, riguarda noi tutti, né inglesi, né scommettitori, né particolarmente appassionati di football, magari neppure genitori. Produrre trame narrative e impigliarvi i nostri cari a loro insaputa è purtroppo uno sport molto diffuso. Ci infonde sicurezza e ci consola. Come aprire la stura della chiacchiera sui figli occupando il nostro turno di parola con l'interlocutore improvvisato, schermandoci a quel suo sguardo che ci fruga fin nelle mutande, serve a chetare le nostre inquietudini e a darci l'impressione di agire sempre pienamente giustificati da una logica di ordine superiore. Ci fa bene, a noi fa bene, tanto da farci dimenticare quanto può far male a loro. Qualche secondo, no?